Allora, se si butta il disco, vabbè, già è vero quello. E tutti le dai tutta la cosa, quando la vuoi. Sa, calabri, bandità, babbo carnico, si butta il disco che fai. Io già sono contrario a queste cose, la gallina, la fede, cattivine, io sono contrario, intanto da lui, un indomani che all'abbre si rubiglia, invece di la gallo a un morto, lo dà che ha un vivo, no? La parola, è così, è allora. Le 7:20 sono. Buongiorno, buongiorno, buon Natale. Grazie anche a lei, signor Graziano. Natalino, sono in compagnia di Torino. Eia, una vagava. Io stavo guardando la televisione, non posso fare acceso a vedere chi c'era adesso. Natali, e come mi ascolti di lì con questo apparato? Bene, bene. Sto usando la 38, i 40 canali, il portatile, da campagna, non da casa. Capito, ho capito. Io ti vedo, lo sai che ti vedo col monitor qua, colui. Dall'alto ti vedo. Eia, pure io ti vedo. E cosa sto facendo? Stai parlando con me. E dove sono? In campagna, nella macchina. No, sono in casa, dentro casa. Non la senti la musica dall'altra camera? E adesso sì, un po' di casotto già si sente in sottofondo. E c'è la porta abbassata, due porte, anche ci labbro, si intende barire, fanno la discoteca a fare il salone. E qua. E allora, mangiate bicchio hai, Natale? Sono di Guisi. Io mi sono coricato stamattina alle 5:15, mi sono uscita da aula con un cerchione in capo. No, io tranquillo, alle 8:30 ero già fuori casa, figurati, sono andato anche a prendermi il caffè con Pierpaolo, già ero bello ardito stamattina. Ehi, aspetta un attimo, riprendi tutto, Uni. Natale, dimmi. Natale, io mi sono andato. Non ho capito qualche cosa stai dicendo. Natale, non ha cambiato, grazie. Grazie a quella embriaco da Rinotti, no, non aveva a caso. Avete parlato in due. Sì, è tutto a posto la radio. La radio già funziona bene, sta andando bene. Ma che ho sbagliato, riprendi che sto facendo cosa, appena ho finito rientro. Non si preoccupa, grazie. Sbagliare un anno, riprendi la testa. Cappa, cosa ti volevo dire? Ma non c'è sentito nessuno, Gianni, gli altri. A Gianni ho sentito a Pierpaolo Poncati e stava facendo un po' di... cioè ha chiuso perché dice che è arrivata gente, non so, allora anche Antonio, leader, ha chiuso anche lui. Vabbè, parenti di assesso arriviti, gara gara. Sarà Drumido in casa Giulia. Minimo. Allora prima magna da voi stasi cantando tutta la notte. Guarda. E te che io? Vabbè, io devo chiudere che sennò Ero poco fa, la sera guardando la televisione, no? E pure non sono uscito per niente sul video, ho mangiato, no, non sarebbe tanto carino da parte mia. Ah, scappa, scappa, ok, va, se c'hai gente, va tranquillo, Natalia. Vabbè, ci sentiamo alle prossime, magari più tardi, non lo so. Sì, ma per ti piace, già siamo qua. Ciao, Natalia. Ciao, ciao, sono te, ma Graziano, ma dov'è? Ehi, guarda, con un saluto anch'io, Mañana. lui. Tu perché come gliel'hai detto? Che sono diventato con Gaspara rimane, poi ti dici dal tuo, ti dà un pisciato di risate. Papparoccio, papparoccio. Beh, falché! Qua grazie a me, compagnia di Pierpaolo e Massimiliano Bulldozer, sì. Papà, buongiorno anche a loro, anzi buonasera, siamo di gira. Grazie a loro, buonasera, ben ascoltato, buon Natale. Papà, ricambiate al centro anche a te, al QRA familiare. Papà, oggi non hai i ricambiamenti qua. E evidentemente ci chiede il muro, qua via corre tutti. Allora, forse c'è la Pierpaolo, oh grazie, io ho entrato a salutare, vai Pierpaolo. Cava, Elia, ben risentito, è Natalino, andate Zinne. Natalino io non ho sentito, Io c'era Natalino, è entrato un pochino, poi ce n'è andato. Ma cava, vuol dire che doveva fare cosa, Elia? Ma cava, quindi hai mangiato bene, grazie, eh? Ti ha telefonato la mazza. Ma oggi niente, sto tornando a preparare ancora, pochita lo spiedo, gambari, non rimagno, mi sono coricata alle 5:15, era un dollaro, mi sono che ci dà dalla una con un cerchione in capo. Allora hai bevuto troppo, grazie. Mischiato, ho bevuto vari tipi di spumante, il vino no, il vino già era buono, era di Usini e già era buono. Però mi ha puttito lo spumante, venivano un bel tipi. E la buona mi va bene, non so se si sente lo stereo dall'altra camera, dal salone. So, tornava a tenere ciò che tendi, sì. La divisa mia moglie, a me mi va una minestrina che non voglio usare. Ah no, forse è meglio, grazie. Ma c'è un'infetta così che voglio fare, Poi uno spumante, tira l'altro, Lucia. Allora, va a tenere, qui sono strippitici, ma ne va tu va. Cosa, grazie? Le fatto fare tutti, arrivati, stamani, lo strippitice burro me l'hai fatto fare con un cappello del Babbo Natale. Figurati, anche Beasi non ci avevi sopra. E poi li fossi, dici me, ma pesato me ne gioco, mi sta cucato. Oh, me ne bode e me ne enari, ma le buri pugliate mi stanno cucciando letto, mi sono dormito in un secondo. Come non ti hai fatto una giusta, grazie. Oh, dici, che va via una pulla di spumante, davvero prendo lo strippitici con un cappello di Babbo Natale, una gomica, e chi ti ha mai arrapigliato con la ginepresa? Adesso quando lo sviluppo del dischetto al computer già te lo porto. Gappa gappa. E tu cosa hai fatto qualche roba per adesso? A strippitici. Gappa roglio, dai. Riprendi Pierpa. Paolo non ci deve essere accentato, riprendi qualche roba. No, già ci sono, già. E cappa. Uscito mio che io devo scendere, no, riprendete voi, fra 2 minuti riprendo. Pagava, e allora mi si torna così in colpo di questa cosa, no saranno. Oh pesanti, grazie a pesanti, alla bisogna gli adesivi. Già lo credo, va bene, anche a me non lo stavo bevendo, io ero 2 anni senza bere, ma tanto ieri notte era Natale, e va bene. Oggi manco un po' subito, ti metto la pulla dello spumante e un'altra banca, ancora, la pulla di rubino, birra, e ci abbiamo. Oh, Lucia, grazie, non toccarmi. buon con la data, vai! E capiamo i 31. Oh, sì. E allora, che? Mi pare che sono entrato gli assassini voce in bagno, a bada da vedere. Ma proprio con la bocca un buccio qui. Quasi compreso. Sì, avevano un amico mio, pensavo a telefonare. Tu, ossia. Io fare bravo, va. Ma che capovano un amico, non me la fusti, Eva. E allora, la voglio sia. Ah, da voi fate male, no, no, meglio niente. Lui, poi, passare così male, perché oggi mi sento male, no, io mi sento bene, eh? Ah, ma devo uscire con l'adulto, che tutta la piena, tranquillo, va, sempre tranquillo, vai. E beh, chiaro grido, no, no, che poi intanto ti senti male, per sentirti male non mangi nulla, meglio bevo acqua, rumaco, mangi buco. Beh, ci sei vino, grazie, ci sei vino. Fatti in casa, mi ha detto la brutta, me la mangi. Oggi non ha di manco si ricade, ma nulla, nulla di nulla. Apparocelo. Vabbè. Andiamo per quattro, non per quattro, tutti siamo a tirare la bulla. Ogni tanto mi vede lei un colpo di esalazione, devo essere fermentando ancora in panza. Davvero. Ma giù di tassone leva, ma mi sento tipo rifrigerato, no? Però al mattino mi ha dato una boccata di esalazione, a parte da vedere così la tutti ci mi sa di tutti in colpa di tutti. Sono io, sono io. Poi ti frega perché ti barabada è tutto sudato, c'è sempre dragone, ciuffizzenni, di tutti i ribadi, mi ha lasciato battermi, a ritegni lo segno, si sente un po'. Allora ritegno e allora, avanti, che tratto? Buonasera, Rosso! Lui. Grazie a te non hai deciso di rimanere a sera. Ah! Tu non hai deciso di rimanere a notte, così avere i nocchi dopo di mezzanotte. Vera, non cara occhio, lo baracchi. Oh, no, io ho un dollaro. Hai fatto pure uno strippizzissi con un cappello del Babbo Natale. Ehi, ha cantato Falchetto, Antonio, io. E l'abbi tutti a posto, Sì, andavo lì. Mi avanzo battene che la Maccarena, sono battendi. E di in casa tua? E giù in campagna, nel salone. Ma allora già andavo, vabbè. Già andavo allora. E tu non vai, grazie. No, negativo. A rimane mi sono fatto un dollaro, mi sono buccato il camane, adesso che va con quattro mi sono uscita dalla una, con un cerchione in capo. No, a chi battenni, ridenni, e gli chiedisco una tazza presso all'altra, tutto misciato, no. vabbè, te la dai una cosa all'anno, interessa a te non continuare a uscire. Oh, allora gioco fuggito, quella in cucina, un'altra la banca, vino, birra, fumate, mi cugnata la bocca, andata di aria, esci a via, amici. Ehi, cazzo, non si fa male, abusarne. Canterino, non ci ho capito niente. E se sono io grazie a cantare. Ma di ieri notte. E allora? Il bastardo di Pier Paolo Ferragamo che la sta mandando. No, facciamo la mia stasera. Ho sentito che vuole finire la ora. Che fa? Paolo? E a che? Avanti! Mandami la via MMS! Cosa ho tu in MMS? E lo vuoi in CD? Sei d'Antonio, Luria, di lacrime in terra delle cacce. Vabbè, riprendo dopo, vai, devo fare cosa? Ciao, ciao, buonasera, buonasera. Oh, non risponde niente, Paolo, Sì, era tutto organizzato. Ne ha approfittato a chi era mia busta, tutti i gatti. Aspetta, c'è andato a fare un po' di gasolio. Aspetta che ti manda a fare il cacchio. Sai che stavo cambiando col microfono con l'eco, non rendendo. Ma ci senti a fare che te Antonio oppure? Solo a me vai di dire. Ma ci sono simpatico. No, aspetta, non arrivo al punto. Ciao, Abbiamo fatto il karaoke, no? E risate, che ci siamo fatti. Sì, fai ascoltare l'altro pezzo. Via email, ma La vagava, fa il petto. E io già, ti ho risato. Però poi ci siamo divertiti, va. Ma sta poco per divertirsi, poi stavo a dire la cazzata. Allora, lui si può, è dura, non ci andranno gli altri, già fa bene. La verità non è che c'è molta. E allora io avevo acceso il baracchino. Non avevo più gana di fare chili. Qua all'uomo studio. Penso che attacco il baracchino avesse c'è niente. Non vedo nessuno. Ci ho portato già vende e vende e poi è andato a far chitto. No, c'era un sospeso. Un pochettino, ma io ho detto Antonio. Poi non mi ricordo c'era qualcuno prima. C'era anche Roberto prima. È stato fino a. Charlie, lo so, c'era anch'io. Io se c'era sul tardi, verso mezzanotte, meno un quarto, così. No, facciamo sempre, se tutto, siamo tutta la sera. Vabbè, comunque io, dopo sono entrato e ho cominciato a cantare. E Paolo, e io, mandalo su YouTube. Anche perché devo prendere le pastiglie e boh. Cava. Ora qualche cosina, così però c'è andato. Non molto, è poca roba. Senta già quel montone di roba che è avanzata, mamma mia. Non è troppo, No, no, qua è tutto regolare. Ma noi ci avevamo Cagnello, Borcetti, dopo l'altro di ripasta al forno, ci sono. Sì, ma domani, senti, basta. Dai, ci mette in forno e ci mangia, lì che sta qua ci viene al pranzo un poco. Diciamo che io non è che beva in tutto l'anno, non ne tocco nulla, nulla, nulla, addirittura mia moglie a pranzo un bicchiere ce l'ho bevo, ma io non ne bevo, non ho l'abitudine di bere, però ti dico la verità, se c'è qualche cosa che mi piace, tipo un moscato di sorso, cosa ti posso dire, penso che quello che mi hanno offerto nel nuovo legge era forse il canonato, perché si attaccava al bicchiere, era di chi si fosse a vero, varia liquore, era liquore forte. Ah, ti alleviava la vista, mi ho bevuto 4 bicchieri, oi oi. Buono, è così, se no tieni preso tutto appuntonato. No, no, niente, proprio nulla, fresco, bello fresco. Come mi sono svegliato, Marco mi ha fatto anche le fotografie quando ero addormentato nel divano, mi hanno fatto le fotografie delle immagini. Ho già detto che pure un'altra persona ieri era una mina, era. Massimiliano. Mi tiro per la vacca manca entrata, figura di volentieri. Vabbè, è già una ripresa, troppo bello. Però è tutti i giorni che capita. Tu anche devi vedere, stamattina sono passato alle 9:30 al quadrato, devi vedere cosa aveva, di puli di spumante, vino e cose varie. Non lo posso immaginare. Minimo c'erano 300 bottiglie, minimo, perché c'era tutto il quadrato pieno all'interno. E poi li hanno messi tutti in fila sopra, visto quegli spazi di traffico che ci sono, li hanno messi in fila sopra quegli spazi di traffico gialli che ci sono, tutte quante in fila le bottiglie dello spumante. Infatti sto pensando che c'è qualche festa, qualche cosa, perché non è possibile, ma è lo spumante di San Divino. Poi ieri stamattina, verso le 2 così, 2:20, guarda, ha scoppiato questa cosa, era una bomba, ha tremato tutto. Ho pensato che ce ne fatto per incagare le macchine, qualche cosa del genere, poi non l'ho visto nulla stamattina, ho guardato, ma un boato allucinante, mi ha svegliato il soprassato. Era stato uno di quei petardoni grossi, tipo cipolla, roba del genere. Sicuramente. E poi gli hanno fatto una raffica, ma di quelli più normali, là. Sentito anch'io, mi già. Oh. Mi sono uscito e ho detto, sto andando, ho staccato la cosa, l'antenna dal baracchino, guarda, un calcino. E cosa so, invece c'era un pezzardone. Una bomba messa per qua che ha tremato tutto, mi la vibrazione nei vetri, ho sentito come ha esploso. Secondo me era una bomba, perché il rumore era omicidiale. A me mi sembra stata una bomba, te l'hanno fatto esplodere qualche macchina, qualche cosa del genere. Ehi, quando leggeremo le giornate, sai che è successo qualcosa del genere? Ah, ma non penso. Può darsi che sia anche di quelle che hanno fatto loro. C'è gente che si destreggia a farle lui le bombe. Ah, è quello che ho detto. Le prendi a tutti. Può darsi che sia qualcosa del genere. Sia una cosa artigianale. Non vi dico se era niente, lo dico. Tu casa te l'hanno esplosa. E allora? Zarona, sicuramente le hanno preparate in delega. Insomma. Ho casa, perché ha vibrato, ti hanno vibrato tutti i vetri. Si sente proprio la vibrazione del vetro. Non l'ho usata in quella piazzetta lì. Sicuramente. Io mi ricordo solo una volta che questi amici miei a Sacrocuore l'avevano fatta loro, hanno invato la miccia, ma pensavo che fosse tipo bombetta così, cavato gli avvusi. Non mi avvicino di imparare di piccolo, gli avvusi gli hanno fatto, ha brincato la terra e nasce. Incredibile. Se fanno una cosa del genere lo dico che pompa, cioè fate casino fate. Tutti i bugiardi che se si chiamavano gli enti, ogni a bomba loro. Che è successo? Che roba. Ma vabbè, passando, va il Capodanno che è peggio di... A Capodanno cosa fate altro? Io dico una cosa, che sono un po' pericolosi già quelle che fanno, che sono concesse, diciamo, queste bombette, perché non sono pentane, sono bombette. Figurati quelli che ti fai tu, che per risimare la polvere la sparo, che lavora proprio a mo' di bomba. Ci sono bombe. Ah, che c'è un'altra macchina, cazzo, ogni tanto ne combinava di una. Mi sono buttato a fare bombe nella soffitta di questo qua. Oh, era quanto gli ha deposto lì? Una qualità a tennis, così. Tutto, hanno fatto un involucro, poi tutta legata col filo, sta bella legata attorno, una bicchia. Se come ti arrivi della cosa, tutti fuggiti. No, una volta ho trovato una, cavolo, insomma te l'avevo raccontato. Stavamo atteso che c'era cosa, era pari a un camerotto di dinamica parica. Era un bombettone con le foto di scatta, attendo che c'era cosa, c'era la nuccia. Tutto si è tremato. Perché sono quelli che non si possono vendere, tipo i Maradona, anche quelli lì. Non si possono vendere. Quindi bisogna stare attenti. E poi sono fatti a Napoli, capito? Sono fatti così. Adesso tu prendi, metti domanda e prendi magno, che sono fatti in Cina, non è la stessa cosa. E io ho chiesto cosa, ci sono quelli che sono molto pericolosi. Sì, già, ma chi si è data una fonte però, E poi c'è bella di Nato, avanti, di tutto. Non so se la fanno pagare bene, guarda la cipolla, due anni fa costava intorno alle 50 euro. E lì attaccasira qui. Compri un pacco di pezzardi, si compra e basta, spendi molto, molto, molto meno. E rischi anche meno. Ma ok, non lo vuoi fare uno, quella bonito fa. So fare un gol, ma non mi sembra il caso. Vabbè. Non mi è mai interessato, non è prendere quelle cose così grandi. Però sempre così. E toccano e basta. Roba così pezzata, normale. Vabbè. Sono due RX che stanno ascoltando, sto facendo una cosina, dai. Vai, fai. Non c'è un problema. Io mi sono abbrumito, l'ho procurato. Via. Vedi, c'è anche Pierpaolo, Fanchetto, fai girare. L'ho fatto girare. Questo invece ci manca andare a cercare una basetta. La gente dorme. si dice Augusto, che si dice? Se non me lo dici, sono in paratetica, basta, tutti in paratetica. Sono paesano da Sobbarro, dai. Beh, allora, da noi ci andiamo, quando c'è tanto caffè è chiuso, come voglio, c'è tutto un caffè, perché se andiamo oggi ci prendiamo il caffè, la macchina caffè. Va, va, va. Forse di genere, metà locale e chiosa. Come? Mi dice la birra, letto, quando sempre che dici bottiglie, per di genere, cale e chiosa, così è meno. Alla destra e sinistra, ma vediamo insomma alla marodina e andiamo a pisciare. Ma dove la quella cosa è recuperata da vivi a tutti? Le case? Quegli apparati recuperati li hai? Ah, ho recuperato quello là, gli ho detto che ci passavo in questi giorni, mi detto dove abitavo, anche dove abita, e qui dicevo salire. Sì, io si capisco, salgo la rivista con mia sorella, 5 minuti, vado a casa sua e così a meno che faceva le mettere canali. Ma pagava. E poi mi devo recuperare con l'altro 200 canali che ci vivo. Ma quello la sassi lo devi recuperare. Sì, era la sassi. E poi non sei ancora andato a ritirarlo. No, no, sono andato e già ho pazienza, ma ci sia. Per quanto devo vivere di più di paracchi, devo essere calato. Va bene. Ma va, va, va. Bianco l'attimo. Ci siamo a lasciare i miei. Choo-choo.